TV canale 10, c'è qualcuno qua? Ma è possibile che non ci sia mai nessuno in questo cavolo di frequenza? Bubu. Ciao Natalino, buonasera. Ciao Carlo. Io ho appena acceso. Cappa, ne ho costruito una cosa stasera, mi sono messo poco fa e l'ho fatto. Cazzo, mi sono dimenticato di mandarti la fotografia e te lo faccio vedere. Io stavo lavoricchiando a casa, stavo sostituendo il tappo del WC del bagno grande, perché quello che c'era era un invecchiato, diciamo, scolorito, eccetera, l'ho trovato che si adattava, buono, e l'ho preso da Mara, perché quelle di Bricoman non andavano bene, troppo plastichetta, capito? Io lo volevo di quelli laccati, con legno, eccetera, che durano di più. L'ho pagato anche di meno di quelli di Bricoman, ho finito adesso, mi è acceso. Vai Natali. Capo, anche io l'ho cambiato da poco. Adesso ti mando la fotografia di quell'affare lì, che me lo piatto a vedere se ascolto bene la situazione. Manda, così guardo cos'è questa novità. Mi hanno fatto anche i complimenti, un amico mio che è tecnico, mi ha detto, cazzo, roba professionale, complimenti, ma fa. Me l'ho mandato, guarda a vedere se l'ho visto. Con la TVI, dai, almeno ti puoi, insomma, trattenere di più anche quando vuoi, a tutte le ore, quando ne hai voglia, insomma, e invece prima eri limitato, magari la mattina, la sera avevi paura di fare TVI, eccetera, e quindi così qualche chiacchierata in più ci esce, Natali. Vabbè, quello è per un'antenna multibanda, mi capito là. Magari mi interessa anche a me, mandamelo poi quando ti va bene. No, hai già mandato, guarda quando se lo vedi cosa è. Te l'ho mandato aperto così si vede l'interno, tanto non me ne frega niente se me lo copiano. Bello, capito, ma ti hai comprato tu la scatola elettrica e poi ci sei bella che appentomi. Sì, mi ho comprato la scatola, quella scatola lì, il toroide mi ha fatto arrivare e poi ho collegato il tutto lì, ci vuole solo il cavo di 10 metri e fa un'antenna multibanda, l'attacchi all'accordatore e vai da tutte le parti, la puoi fare sia rigida l'antenna, cioè verticale, oppure una long wire. Sì, ho capito, i due terminali che ci sono, rosso e nero, quelli già si trovano anche in GBC, quella roba lì, no? Sì, già si trovano. Ascolta, lì cosa ci colleghi in questi terminali che ti sto dicendo, rosso e nero, ai lati della scatola, quelli esterni? Allora, lì puoi fare il contrappeso sul nero, cioè ci puoi mettere dei radiali, e invece sul rosso ci vanno 10 metri di filo, da 1,5, da 2, e praticamente ti fai l'antenna. Ho capito, poi una volta che la chiudi la scatola ci sono le quattro viti, c'è la guarnizione, se non sbaglio e risulterebbe ermetica, no? Sì signore. Bella storia. Il collegamento, il toroide e poi che cavolo di filo è quello? Di rame, ma una guaina trasparente? Sì signore. Beh, da che attento, ti sembra fatto, comprato, fatto, dai. Se la faccio la cosa la faccio bene. Questo amico mio tecnico l'ha vista, ma cazzo, roba professionale, complimenti mi ha fatto. Però mi hanno bocciato, mi. Anche io ti devo dire, così a vederlo sembra una cosa comprata pronta da un negozio, capito? È perfetto mi sembra, capito? Bello, complimenti. Thank you. No, non ne vendono di quelle cose, quelle sono autocostruzioni che fanno i radioamatori, capito? Per farsi le antenne. Capito? quella lì ti prendi una canna da pesca, amico, e ti fai l'antenna con quella lì, e sei sicuro che sei chi tranquillo che ti fai tu il QSO, oppure per ascoltare come la uso io, adesso almeno ascolto bene con quello. L'hai già collegata? No, la devo collegare, c'ho già un dipolo per i 20 metri, ma quello lo aggiungo e così mi faccio l'antenna. Bella storia, e poi magari mi farai sapere quando colleghi tutto, capito, e più o meno lo spazio che ci vuole, eccetera, magari mi manderai altre foto quando sistemerai la cosa, così poi vedo di copiartelo. Sì, ti credo, non ci vuole molto a farlo. Oppure ti do il materiale, me lo fai, così faccio prima. Pagendi. Ah, pagende? Come dicono a Sassare, pagendi. Ma lo senti tu lo sblatterio? Non so se in FM, magari roba di propagazione oppure qualche canale adiacente. Sì che lo sento, propagazione deve essere. E a volte a tratti si sente, capito? Comunque la radio adesso come l'hai regolata, la tua è perfetta, prima era troppo preamplificato il microfono, capito? Quindi diciamo la tua voce non veniva fuori chiara, perché si prendeva tutti i rumori di fondo, capito? Invece così vai perfetta proprio la radio. Ma questa non è quella di ieri sera, no? Questo è quello omologato, quello piccolo. È il superstar, mi hai detto. E questo è il superstar, con l'MB più 4. Quella di ieri sera l'ho bella regolata. Adesso so che esco bene così. Sì, questo è perfetto, è come radio, l'MB più 4 va benissimo. La radio è super 5, proprio chiara. E K. L'altro è una V508, capito? L'altro microfono, quello che abbiamo regolato ieri sera. Infatti pensavo fosse ancora quello, perché tu l'hai regolato bene ieri sera e insomma era perfetto, dai. Comunque anche con quest'altra radio va bene, e questa sta uscendo solo con i watt suoi, dai, della radio. Sì, 4 watt, è quella omologata che io uso sempre qua. Sì, fai un altro passaggio che ti do un controllo preciso. Vai, 4 watt sono questi, dai. E 9,15, però c'ha picchi positivi, capito? 9,15, 9,20. Non arrivi al fondo a 30, però va benissimo. E beh, con 4 watt cosa vuoi pretendere? E io idem, io ho la radiolina, quella piccola della President, e sto uscendo con 4 watt. Io ho anche un 23 canali, di quelli antichi quartati, che me l'ha regalato un amico. Ieri ne stavo parlando forse con Gianni, delle radio che andavano a quarti. Io avevo un Maxo, un portatile vecchio, no? Tipo mattoncino, ma era una bomba, capito? E ci avevo messo i quarti delle radio, non quelle a 40 canali, ma quelle dei 23, capito? Che sono un po' diversi. Ed era, diciamo, lo usavo con un fisso a casa, quando uscivo andavo in vigna, roba di 7-8 km, ma tutto dall'altra parte del paese, se mi chiamavano prendeva in ogni dove. E poi non prendi colpi, e un 23 canali ce l'ho, forse mi regalano anche un Sommercamp, 23 canali sempre di quelli antichi. Quelli sono belli da tenere, anche perché si collezionano pure, dai, perché non li fanno più, immagino, quelli. No, e quella è roba vintage, funzionano a quarti, PLL, quelli non ne hanno. Non c'è nessun altro, Natali, in frequenza, no? Che io sappia, no, magari c'è gente ascoltando, io ho fatto la chiamata ma non c'era nessuno, Carlo. Che vuoi che ti dica? e ieri c'era Gianni alle prese con la nuova antenna della macchina, però il PL non entrava dietro nell'attacco dell'antenna della radio, capito? Perché mettono i PL di adesso, hanno un passo diverso come filettatura, e quindi mi diceva che l'ha dovuto togliere e ci ha messo un altro PL che poi andava bene per la sua radio, capito? Se no il cavo che esce dalla base magnetica, hai capito? La roba nuova ha un passo diverso rispetto ai vecchi baracchini, diciamo, alle vecchie radio di magari di fattura di 15 anni fa, 20 anni fa. E ho capito. Io gliel'ho detto che avevo quelle ghiere per poter recuperare quei PL strani, che gliele davo, adesso gliele cercano, io ho una busta da dargli di quelle ghiere. Sicuramente si può sostituire, capito? Però lui ormai l'ha fatto, ma era giusto per la curiosità, vedere se era uscito oggi in macchina, se era andato da qualche parte a fare delle prove, perché l'antenna è nuova e l'abbiamo presa su internet, capito? E niente, la doveva provare. Avanti! Briciola! Qui è Brigido! Ehi a Carlo da questa! Ciao Manuel, buonasera! Oh signor, già entrerà Gianni, comunque Carlo, penso che già entri. Se non ha impegni già dovrebbe entrare. Sicuramente sì, più tardi magari, ancora è presto, insomma 18:30, pensavo fosse più presto, invece sta camminando, mi è passato il tempo facendo quei lavoretti che ti dicevo prima, Natali. E anch'io quell'affare l'ho cambiato da poco, perché mi si era rotto e siccome era in legno e me l'ho comprato così stesso. Ehi, accappa. Avanti, Manuè, super, briciola. Attento, cingomino, se ascolti Brigido, cappa. Ma era in macchina, no? Natalì, un attimo di bianco che metto a posto un po' tutti gli attrezzi, se no ce li ho sparpagliati. Già riprendo subito, comunque già accesa la radio, dai. Cappa, già sono qua che stavo smanettando il telefono di mia moglie che è difettoso. Ehi, adesso metto a posto così mi libero. Ehi, chiama quando sei libero, dai. Attento, cingomino, se ascolti qua, Brigido. Manuele. Brigido. Canale 10. Avanti, mi ascolti? Oh. Attenzione 10. Va bene. CQ10, c'è qualcuno qua? Avanti. Chi è avanti? Gianni, sto uscendo. Ti stava cercando Carlo. Ma sto uscendo? Adesso sì. Adesso sì, adesso come dici, come i carabinieri. Cosa ci posso fare io? Adesso già ti sento. Poco fa sentivo solo la portante. C'è il cursore che è difettoso. Se la ruba a caso questi microfoni a me a Marco, tutti i miei difettosi. Già lo stavo dicendo ieri. Cazzo, mi ho costruito un affare per farmi un'antenna, già. E cosa la E mi ti mando la fotografia, ma l'ha fatto anche complimenti una persona, che è un tecnico. Manda! Guarda a vedere già. Adesso l'ho chiuso, comunque già si vede tutto. Che è aperto quando ho fatto la fotografia. Che te l'ho inviata? L'ho visto la palina. E cos'è questo qua? Un balun? Ehi, serve per fare un'antenna multibanda. Buonasera. Fatto bene, va. Avanti, break. Buonasera. Mario Porto Torres. Ciao, Natalino. Stasera ti sento. Tu mi ascolti? E arriva troppo basso questo che mi ha salutato già, lo senti tu? Ehi, è Carlo di Porto Torres. Scappa, salutalo. Ciao Carlo, avanti! Ancora un questo Carlo, Mario Beto di Porto Torres. Gianni, sei tu? Ah, ciao Mario, ciao, mi hai sentito, vai, cordialità. C'è anche Natalino, però non ti ascolta bene. Saluta, non fammi cadere, vai, io lo sento più oddio, piano piano proprio. Questa sera riesco a sentire, altre sere non ce la facevo. Salutamelo tanto, a te di nuovo Gianni, ti lascio il tuo zio, dai, sono entrato solo per un saluto. Sei pure. Sì, a Mario, vai, ciao. Se vuoi stare qua non c'è problema, siamo qua per fare il corso. Se vuoi stare non c'è nessun problema, resta pure. No, capo, ti ringrazio, sono in cuore lì, sto facendo delle cose, però ho sentito Natalino, approfittate per salutarlo. Eventualmente Solino mi ascolta, mandagli tanti saluti da parte mia. A te di nuovo Gianni, buona serata e buon proseguimento per te, riprendi. Ehi Mario, dai, vabbè, allora buona continuazione e buon corso, dai, se ci ascolti. Capo, avanti Natalino. Salutalo Mario, dai, era con me al corso, Mario. Sì, lo so, è quello che hanno promosso il Porto Torres. Ehi. Ciao Gianni. Ciao Carlo. Metti un pochettino di vitamine in meno. Non ne ho vitamine, sto scendo con il cobra, ti giuro. Abbassa appena la... ma il microfono palmare. Ehi, guarda adesso se va bene. Se no era troppo, capito? Così ce lo abbasseva meglio, perché qua sei a bomba. Cappa, va bene. Ciao, buonasera Mario, se sei ancora in ascolto, Carlo da questa parte, da Sassari. Non so se mi senti, perché ero in quel RT un attimo e adesso ho ripreso. Vai Gianni. Ciao Carlo, anche a te buona serata. A te Gianni, scusa. Vai, tranquillo Mario, se vuoi parlare parla pure. Ho provato con l'antenna, Carlo. Sì. Ciao Mario di nuovo. Va bene comunque Gianni. Sono arrivato 9:20 a Gavrino. Allora già va bene. Poi avrei modo anche nei prossimi giorni di provarla meglio, dai. Il PL l'hai sistemato bene, dovrebbe essere perfetta adesso. Sì, il PL l'ho cambiato, proprio l'ho cambiato e il cavo è fatto benissimo, cioè praticamente invece che esserci la cassa intrecciata c'è il rame proprio, c'è il rame tutto a filo, rapito. Roba buona. E intanto gli ho tagliato un pezzettino perché era appena saldato quel PL, gli ho messo un PL di macchinette. Cappa, riprendi Natalì. Sì, Cappa, l'importante è che ci vada bene già, almeno c'è l'antenna come si deve. No, già va bene Natalì, non l'ho regolato manco le stazionarie perché mi ha forzato lo strumento, probabilmente, come l'ho portato in macchina me l'ha sballato. Cappa. Probabilmente l'ago come si muoveva si è sballato, non funziona, ho provato ad attaccarlo, ho fatto il cambio, la regolazione, poi ho messo il rosmetto e non da cosa, non dalle stazionali, dai. E a casa ha provato l'hai? Cosa? Il rosmetro. No, non l'ho provato, Attari, non l'ho provato. Comunque una cosa ho notato, che il baracchino mi rampeggiava lo smitter con l'altra antenna, invece con questa non lo fa. E che cosa era? Era il PL che era mollato e giocava. Infatti, provalo quel rosmetter, non ce lo buttare. Capito? Provalo se va bene a casa, se no al limite saranno i dio di rivelatori che vogliono cambiare. Già lo provo, dai, già quando ne voglio lo provo. Cappa. Comunque non dovrebbe andare stazionario perché mi segna la lancetta dove mi segnava anche l'altra, quindi bene o male sono quelle le stazionarie 1 e 1. E infatti, lui ha detto che era già tarata Savirio. Non lo so, vabbè Savirio non l'ha comprata nuova, la che gli hanno regalata, quindi magari l'ha tarata anche il padre che ce l'aveva prima, non vuol dire. E vabbè. Avanti Carlo. Eccoci qua, io ero prima infatti con Natalino facendo quattro chiacchiere, mi diceva di questa cosa che ha costruito lui, mi ha mandato la foto anche a me e niente, infatti avevo chiesto di te se ti eri sentito con l'antenna nuova. E dimmi un'altra cosa Gianni, è la base magnetica, la trovi più resistente, più salda questa rispetto a quella che usavi prima? Ha voglia, questa qua è molto più forte, molto più forte. E infatti ieri hai visto, c'era lo strato di cartone, si era attaccata la macchina pure. Già me lo ricordo. Vabbè, comunque, cioè va bene, dai. Mi ha soddisfatto il segnale che mi ha dato Calvino, che non è a due passi. È importante quello. Poi io vedo adesso quando mi arriva la radio che me la riparano, vedo un po', dai, magari la prendo anche io, ma utilizzerò un altro corriere, non quello. Infatti, addirittura ho visto gli usciti, perché stavo guardando per le gabbie per pagare, io volevo prendere la gabbia più grande, e praticamente stavo guardando gli usciti e c'era, te lo potevi scegliere tu il corriere che volevi, c'era Bartolini ed faceva un prezzo, c'era SDA e faceva un altro, capito? Esatto, ognuno fa il prezzo suo. Però quello che hai nominato per primo in passato era molto meglio, ti mandava la notifica, rispettavano il giorno di consegna. Adesso ti arriva la notifica che è in consegna e ti arriva dopo 4-5 giorni, capito? Quindi non sai neanche più come aspettarli. Infatti se non devi riuscire, se deve fare qualcosa devi anche sapere il giorno che gli arriva, non è che praticamente così. Avanti Natale. E quella lì avrà il magnete migliore e quindi oltre a essere più leggera regge di più la magnetica, capito? Certo che regge di più, e poi è più leggera, è come può essere la tua di antenna, capito? Rimane così leggera. La mia è una bomba, ragazzi. L'ho provata andando a Platamona, che ci sono delle zone dove non dovrebbe prendere, eppure non mi hanno perso un attimo. Me ne sono tornato anche dalla strada di Porto Torres, l'ho provata, era una bomba. Da tutte le parti mi sentivano bene e il lineare non avevo nulla, io già lo so che non ne uso. Già lo so, ma manco io non ho lineare. Io l'ho messo in macchina così, l'apparato è buco. Ma volevo uscire presto stasera al sole a farmi un giro, ma non c'era nessuna frequenza, volevo provarla ma non c'era nessuno, quindi non sono uscito, mi sono messo a cantare, mi ho fatto un po' di canzoni e poi ho acceso qua. No, io già sono entrato presto, non è che sono entrato tardi, solo che non c'era nessuno, ho fatto delle chiamate ma nessuno mi rispondeva. E magari non hanno coinciso gli orari da lì, perché anche io ho chiamato e non rispondeva nessuno, quindi magari o prima tu o prima io, dopo tu o più io, non lo so, però io già ho chiamato, verso le 5, anche alle 4 e mezza ho chiamato, perché mi sono messo a bel sole, volevo uscire un po' a farmi un giro, invece non c'è nessuno, cosa dovevo fare? E allora mi sono messo a aggiustare questo microfono che dà sempre problemi, che non si sente. C'era mia moglie che stava parlando al telefono, da. E avanti Carlo. Sì, io stasera praticamente sono uscito, ho dovuto accompagnare mio figlio dal dentista e ha finito che erano le 4:30, poi sono rientrato a casa e stavo facendo dei lavoretti, capito? Perché ieri avevo imbiancato una parete e oggi stavo cambiando il copri-VC, capito, che l'ho trovato buono, sistemando un po' in casa, dai, qualche facenduola, e quindi solo una mezz'oretta fa ho acceso e ho sentito Natalino, capito? tutto qui. Casalingo stasera, domani faccio l'ultima mattina per fortuna, c'ho il turno dalle 5 del mattino sino all'1. Io adesso mi avvisatemi verso le 7, devo staccare che devo andare a prendere aereo al lavoro. Tanto siamo qua. Le 7 meno 10 sono già. Cazzarola. Quando dai al limite me lo metto in macchina e vado così. Poi a volte porto a lui. Beh, vabbè, ci sentiamo ragazzi, dai, vado a prepararmi perché mi è passata l'ora e non me ne sono accorto. E quando hai da fare così, vola il tempo. Va bene, intanto noi siamo qua, anche io sto mettendo a posto e avevo tutti gli attrezzi in giro, adesso quelli li ho ritirati, dopo mi porto giù pennelli secchi che ho usato per tingere e così levo tutto dal corridoio, dai, se no è tutto in mezzo ai piedi. Va bene, dai, continuate a modulare che io pure lo attacco dalla macchina, dai, ci sentiamo. Va bene, io già sono qua con la radio accesa, farò qualche attimo di bianco, ma già sono, se chiami poi già ti rispondo se esci in macchina. Natalia, un attimo di bianco e già riprendo subito, già ti faccio chiamata. Già siamo qua, non scappiamo. Attenzione briciola, se senti a brigido cambio. E già entrano. Con le orecchie, Manuè. Era Carlo, Gianni, ma già rientrano. Gianni rientra dalla macchina perché deve andare a fare una commissione. E Carlo sta facendo cosa a casa sua, ma già rientra subito, ha detto. Come? No, negativo. Il problema è che stai vedendo la televisione dall'antenna mia. E allora? Sul tetto noi non ci possiamo salire e quindi l'antenna non la poteva cambiare. L'antenna mia è su un altro palazzo, non è qua, perché il tetto purtroppo è impraticabile. Chi è che mi chiama? Chi è che mi chiama? Oh, Tony, tu sei? A chi la mozzi era di Bessa? E non comprendi io Gaeri. Ah, paghi su che non fa bizzava, a chi va via rimane impignati. E a Maso Gudambelli non lo venga a Manuele. Non ti sentivo perché uscivi anche più basso. Ma tu hai mangiato, te la. Sempre mangiando io. Questo Manuele non i posso fare né cage né lana io. Sempre mandigende già. Ahi, che pensava basta come se lo fai. Mi è sembrato Gio Maria. Gio Maria, tu sei? Spione. Ah, qualcuno mi ha detto spione, Manuemi. Manuele, Nara, tutti sempre rimani impignati e riparli, burro, vai impignati. Fai. Io già ho già mangiato, va. Io si sa che sei delicato. Anche io stavo mangiando alla faccia tua, così impari. E quindi tuo padrino è venuto a farti visita, così è, Manuele. Cosa hai detto che non ti ho capito la piadina col tacchino. Non è delicato come te, no, Tonino, che è pittina. E io già ti ho conosciuto magro, adesso è che sei il triplo. A quanto mi hanno detto pesi più di 100 kg. Toni, non ti rompareggia Manuele. Ripeti Manuele che non ho copiato quello che ha detto a Tonino, non si sente quando parla da lontano. E deve essere paghisso, deve essere. Oh signori. Oh, Nara Toni. Stata stamattina ho telefonato al CUP, torna. Ho avuto una botta nel di dietro tremenda. Invece che il 21 agosto lo devo fare il 2 a Platamona invece che Alghero. Lui va il 21 agosto ad Alghero e invece me l'ha anticipata il 2 marzo a Platamona, non mi pare più. No, un'ecografia devo fare alla tiroide. Allora ti ha tolto 10 anni di vecchiaia, ti ha tolto, gatta, quel barbiere. Adesso c'hai 10 anni di meno. A me ogni volta che ando da rubai birri mio, mi dici, ecco, ho fatto 10 anni di meno. E mi tocca la lira mancia, però. E ora siamo da Sager, Tavidizzi. Quando vuoi, Toni? E allora io gioco un bizzicato da una ora, noi riscendi, no? Non c'è nulla da fare, non mi vuoi passare su un gozzo. E insieme l'abbiamo pigliato, siamo andati da Decathlon, era freddo, avevamo pigliato freddo, e si è pizzicato via tutti e due. Io manco pavi d'appo. E invece a me sono sempre con questo catarro, non lo so io, e non mi può passare. Invece Franco manco pavi d'appo, è sempre il rauco. Sì, forse come si può fare. E tu, era molto suia, sei in casa, però a voi, quando mi gli putari è peggio. Allora mandalo da me, non manco mi basterà che c'è cosa. A che dia andiamo a pigliarsi un caffè in pari, io, due Emanuele. Capite cosa ne dici? Cos'è Toni? E allora, venite a pigliarmi e così a Romanco andiamo a pigliarsi un caffè. KK. Ui ui. Una cena su Donino, una cena. Io lo grido. E a me la matrice cosa? Ui ui. Vi trovo cosa metto caduva.